La gloria di una donna consiste nel non far parlare di sé. Ortensia Mancini, duchessa di Mazarino. La balena. La cosa era grigio polvere, ricurva come una storta d'alchimista. Panciuta la base, si restringeva nella parte superiore. Non misurava più di mezzo palmo. Apparve all'improvviso sullo scrittoio di mio padre, insediata sulla pila di fogli scarabocchiati dalla sua grafia febbrile. La scambiai per un fermacarte, frantume di qualche scultura antica. Mio padre, infatti, nonostante le proteste sguaiate di mia madre, aveva cominciato a raccattare ogni genere di reperti, fabbricati dagli uomini, dalla natura o dal caso. Li esumava, li scambiava con altri cacciatori di tesori, talvolta li acquistava, tanto che il suo studiolo ormai somigliava più alla bottega di un rigattiere che di un pittore. Dentro scatolette di legno di pero conservava frammenti di ossa di martiri, alluci di divinità defunte e calcoli renali recuperati dal cognato nei pitali dei suoi pazienti. Le ammucchiava sulle scansie tra i libri squinternati in ebraico e latino, tavole con anatomia di cadaveri dissezionati, e perfino accuratamente sigillati in una boccia di cristallo, peli di cane e lupo messicano. Quel locale, sempre in penombra, che sapeva di colla, legno bruciato e carta vecchia, il mondo di mio padre quando non era mio padre, esercitava su di me la forza d'attrazione irresistibile di una calamita su una scheggia di metallo. Mio padre pretendeva di non essere disturbato, ma non si chiudeva mai col catenaccio, perché forse in fondo lo divertiva vedermi curiosare tra le sue meraviglie. Mia sorella Albina non provava nessun interesse per i suoi disegni ai fiori essiccati. Lui sollevava appena la testa dal foglio e, portandosi il dito alle labbra, mi intimava di far silenzio. Poi intingeva la penna nell'inchiostro e si dimenticava di me. Appollaiata sullo sgabello coi piedi che molinavano nell'aria, lo guardavo scrivere, scrivere, scrivere. Ma chissà che, a quel tempo sapevo appena sillabare e non capivo perché mai un pittore dovesse usare così spesso la penna. La cosa però non era il pezzo di una scultura e nemmeno un sasso. Emanava un odore penetrante di mare e di marcio, come fosse stata in parte fosse ancora qualcosa di vivo. Era febbraio, il freddo costringeva a tener chiuse le impannate e il puzzo divenne rapidamente così acuto da dare il voltastomaco. Il primo giorno mia madre, disgustata, gli ordinò di far sparire subito quella fetenzia. Mio padre la fulminò con un'occhiata di compatimento. «Taci, femmina stolta», bofonchiò, «tu non sai di che cianci. La fetenzia è più preziosa di tutto quello che c'è qua dentro», la ammonì. «Quanto vale?» si rianimò mia madre allungando la mano. Mio padre gliela schiaffeggiò scherzosamente. «Ci sono cose troppo rare che non hanno prezzo. Manco per 1.000 scudi la venderei», affermò. «Per 1.000 scudi mi venderei volentieri mio marito», rise mia madre, ammiccando a me, «ma purtroppo l'uomo mio non vale così tanto». Però poi aggiunse con sorprendente tenerezza: «Giovanni, falla sparire che appesta l'aria, non vorrei contagiasse qualche malattia ai bambini». La cosa non sparì. Si limitò a diffondere in ogni angolo dell'appartamento una fragranza di mare e di decomposizione, finché col passare dei giorni si inaridì e divenne secca e inerte come un minerale. Tuttavia, non era un minerale. Non era pietra e nemmeno tufo. Somigliava all'avorio e al corno. La superficie era spugnosa, bucherellata di pori minuscoli. Su un lato, irta di setole bianchicce che sembravano quelle del porco selvatico. Mio padre mi raccomandò di maneggiarlo con attenzione, perché era un pezzo del corpo di un animale che nei nostri mari non si vede mai, una creatura di un altro mondo, un pesce balena. Le sere d'inverno, quando la pioggia o il nevischio lo intrappolavano in casa, mio padre allestiva recite dell'Orlando Furioso, selezionando le storie più avventurose di Angelica, Astolfo e Ruggero, o di commedia all'improvviso. blaterando in veneziano, bergamasco e napoletano nella parte di Pantalone, Zannio del Capitano. Provava le scene davanti a noi che formavamo il suo primo pubblico. Albino e io non lo abbiamo mai potuto seguire alle rappresentazioni delle commedie, nemmeno nelle case private, perché potevano andarci solo le donne sposate. Si esibiva volentieri per noi figlie. Nella nostra innocenza feroce eravamo i suoi critici più imparziali. Se un lazzo non riusciva a farci ridere, lo tagliava. La vera comicità, sosteneva, deve funzionare pure con gli idioti. Ma i suoi spettacolini domestici aveva anche un altro scopo. Voleva divertirmi, scuotermi, guarirmi dal mio difetto di fabbricazione. Si era imposto quest'obbligo, da nessuno richiesto, quasi per penitenza di una sua colpa. Senza causa apparente, da qualche tempo avevo cominciato ad addormentarmi di schianto. Scivolavo giù dalla sedia o cascavo col viso nel piatto in uno stato di torpore e di incoscienza. Mia madre sospettava che un sortilegio mi avesse reso scema. Ridevo, ma la mia allegria durava come un temporale d'estate. Scoperta di quel mio difetto m'aveva cambiata. Paurosa di tutto e soprattutto di me, non osavo più staccarmi dalle stanze familiari. Poteva accadere di nuovo e gli estranei mi avrebbero portato all'ospedale o abbandonata chissà dove. Preferivo stare in casa, accudire la mia sorellina Antonia. Le facevo il bagnetto nel mastello, inventavo canzoncine e favole per lei. M'era venuta la smania di crescere, di diventare madre a mia volta. Ero già una piccola donna muta e obbediente. E tale sarei rimasta se quella cosa non fosse comparsa sullo scrittoio di mio padre. Nessuna di tutte le storie che mi ha raccontato, infatti, mi ha appassionato quanto quella della balena che una sera di febbraio del 1624 venne ad arenarsi sui sassi della costa, poco oltre Santa Severa. Calava già il buio quando una sentinella di guardia sulla fortezza intravide in mare a un miglio di distanza verso Civitavecchia una sagoma scura. Forse un'isola galleggiante di sfasciumi di qualche naufragio o un'imbarcazione nemica. Pirati barbareschi che s'appropinquavano per una razzia? Diede subito l'allarme. I soldati si precipitarono sulla spiaggia, ma non era un'isola né una barca, nemmeno somigliava a un pesce. Era così grande che pensarono a un'apparizione demoniaca. Alla luce delle fiaccole, compresero che il mostro marino giaceva a poche braccia dalla riva. L'acqua era gelida, però non fu per quello che i soldati esitarono a raggiungerlo. Temevano che il Leviatano fosse ancora vivo. Alle prime luci dell'alba, un pescatore intraprendente si rimboccò le braghe alle ginocchia e si avventurò verso la mole grigiastra, ormai inerte. I soldati chiamarono gli ufficiali e gli ufficiali i superiori del comando della Rocca di Santa Severa. Dipendeva, come tutte le terre circostanti, dall'ospedale di Santo Spirito. Alla luce del nuovo giorno, il mostro si rivelò un'innocua balena. A memoria d'uomo, nessuna balena prima d'allora era mai venuta a nuotare nell'acqua del nostro mare. Gli erudite ricordavano una balena morta al largo della Corsica 4 anni prima. Ma in Italia mai. Questa doveva arrivare dall'oceano, forse inseguita da un'orca, si era inoltrata nel Mediterraneo e fuggendo si era spinta così lontano che aveva smarrito la via di ritorno. Era una femmina ed era sola, non fu trovata traccia di balenottero. Secondo alcuni scienziati era molto anziana e per questo non aveva compagni. Secondo altri era stata abbandonata dal suo dux. La balena, infatti, vive in comunione con un pesce lungo e bianco che si aggrappa al suo muso e resta sempre con lei. Sospinge nella sua bocca i pesci minuscoli di cui si nutre, allontana i pericoli e col tocco della coda spinosa la pilota nei mari attraverso le correnti come fosse un timone. Per questo lo chiamano Dux. In cambio ne ricava cibo e protezione. Durante le tempeste la balena lo tiene al sicuro nella propria bocca. Non possono vivere l'uno senza l'altro. Se perde il suo dux, la balena non può andare avanti né tornare indietro. Può solo morire. Thank you. Si era incastrata sugli scogli che punteggiavano la costa e sui quali, spesso sbattuti dalle onde, si erano infranti vascelli e feluca. Misurava più di 91 palmi di lunghezza e 50 di larghezza ed era così pesante che nemmeno 30 uomini riuscirono a trainarla sulla sabbia. Decisero di farla a pezzi laddove si era incagliata, arrampicandosi sul suo dorso lucente come su una collina. La pelle, grigio chiara, era sottile e delicata come taffetà. Nel giro di poche ore, quella spiaggia sempre deserta divenne gremita e non bastava più a contenere la folla. Da Roma carovane di carrozze vi conducevano scienziati, zoologi, dilettanti, preti, poeti, pittori. Alcuni volevano studiarla, altri semplicemente vederla, altri ancora disegnarla, perché restasse memoria di lei. Era un prodigio. Ma con altrettanta avidità molti volevano possederla. I contadini e i pescatori della zona furono pagati per staccare la coda, le ali, la carne, le vertebre. I più ingegnosi già sognavano di fabbricarci troni e sgabelli. Le aprirono la bocca coi pali alle travi. Era così vasta che un uomo avrebbe potuto entrarci a cavallo. Provarono anche a dipanare gli intestini, ma il cordone delle viscere era più spesso di un uomo. La carne era rossa come quella del bue, lo strato di sugna sotto il dorso così pesante che ci vollero 3 carri per trasportarlo. E l'olio che ne fu ricavato riempì 9 botti e bruciò nelle lampade per un anno intero. I denti erano alti come un uomo, ma decrescevano nelle gengive come la canna dell'organo. Il più piccolo era poco più grande di una storta da alchimista. Ed era quello che mio padre aveva sistemato sul suo scrittoio. Glielo aveva donato Fra Luigi Bagutti, l'architetto di Santo Spirito. Viveva a pochi passi da casa nostra ed era diventato il miglior amico di mio padre. si vedevano ogni giorno per commentare le nuove fabbriche dell'urbe. Fra Leone, il suo superiore, gli aveva procurato ossa, carne e grasso, e fra Luigi li mostrò a mio padre, sapendo che era l'uomo più curioso di Roma, affamato di novità e di conoscenza. L'oggetto che mi affascinava tanto era il dente più piccolo di quella balena straniera. Quella notte la sognai. Vagava sperduta fra le onde, attratta dalle luci della fortezza, ma quando si avvicinava agli scogli aguzzi del fondo le laceravano il ventre. Lanciava spruzzi d'acqua dallo sfiatatoio, alti come palazzi, ma il suo duc se l'aveva abbandonata e nessuno veniva a liberarla. Mi svegliai piangendo. «È morta, Plautillo», disse mio padre. «Non possiamo fare niente per lei». «Voglio vederla», lo supplicai. «Portatemi a vederla, signor padre. Non tornerà più. Non ce ne sarà mai più un'altra». «Volevo andarci anch'io, Plautilla, e ti avrei portata con me», mi assicurò lui. «Ma ormai è tardi, non si può. Il tanfo della putrefazione ammorbalare fino a Civitavecchia. Bisogna aspettare che la natura faccia il suo corso». Per consolarmi, prese un foglio, afferrò la penna, la intinse nell'inchiostro di seppia e disegnò la balena per me, con la bocca aperta in una specie di sorriso, felice nell'acqua bassa del Tirreno. Una balena inventata, da favola, perché quella vera mio padre la conobbe solo quando Bernardino Radi, che soprintendeva alle fabbriche di Civitavecchia, e andò a vederla subito dopo lo spiaggiamento, incise il disegno che aveva fatto vendendolo in tutte le librerie di Roma. «Ma quando non puzzerà più, mi ci porterete, signor padre?» lo pregavo. Mio padre annuì distrattamente. 4 giorni dopo l'avvistamento, con una rapidità indiavolata, aveva scritto la relazione della balena. In poche ore l'aveva mandato in stampa e l'indomani già era in vendita alla bottega dei librai di Bologna, a Borgo Vecchio, di fronte al Cavalletto. La tiratura era andata esaurita, le copie erano circolate per tutta Roma, passando di mano in mano nelle osterie, e molti si erano complimentati con lui per la vivacità della descrizione. La balena già non gli interessava più. Mio padre preferiva ciò che non è ancora accaduto. La balena di Santa Severa mi ha ossessionata per anni. Non so perché quella creatura spersa, fantastica e solitaria mi abbia turbato tanto. Carezzavo il dente ormai secco sullo scrittoio e piangevo pensando alla regina del mare che si disfaceva sugli scogli. Mia madre mi prendeva in giro, cuore mio rideva, conserva le lacrime che ti serviranno. A primavera però mio padre s'accordò coi frati di Santo Spirito e mi permise di accompagnarlo. La carrozza era stipata e mi sono dovuto accoccolare sulle sue ginocchia. Siamo usciti da Roma attraverso Porta San Pancrazio, col naso premuto contro il vetro dell'abitacolo. Guardavo sorpreso le dozzine di trabiccoli e carretti di ortolane, di colmi, di ceste di piselli, lattughe e carciofi dalla testa violetta, che attendevano di entrare in città. Si tolsero umilmente il cappello al nostro passaggio. Subito fuori le mura, Roma finiva. Bruscamente, avevo sempre vissuto in vicoli oscuri, e se mi affacciavo alla finestra, quasi potevo toccare il muro del palazzo di fronte. Mi apparve qualcosa di inimmaginabile. Una distesa sconfinata di campagna, una geometria ondulata di muraglie scure che urlavano proprietà invisibili, e riquadri verdi a perdita d'occhio, divisi da filari di vigne o arruffati da boschi e cespugli. Allora non esistevano ville su quell'altipiano solcato da valli e burrone che si estendeva fino al mare. Non potevo immaginare che proprio tra quelle vigne, boschi e campi di carciofi si sarebbe compiuto il mio destino. Era la prima volta che salivo su una carrozza. I sobbalzi, gli scossoni e il dondolio mi diedero la nausea. Vomitai sulla camicia di mio padre prima di avere il tempo di avvisarlo del mio malessere. «Santa pupa», protestò rassegnata, «ne ho un ricambio». «Non ho nessun ricambio. Perdonateci», disse ai frati. Quelli si turavano il naso, schifati. La mia presenza era già motivo di imbarazzo. Il cocchiere fermò accanto a un fontanile per permettere a lui di sciacquare la camicia e a me la bocca. Mio padre rimase a petto nudo. A 45 anni era gracile come un fringuello. Dopo l'osteria di Malagrotta, torri e casale divennero sempre più radi, finché la carrozza si trovò ad avanzare in una nuvola di polvere su una strada vuota. Nemmeno sui ponti che scavalcavano i fossi incontrammo qualcuno. Solo le bufale abitavano gli acquitrini di quella terra malsana. I miei occhi non trovavano nulla su cui posarsi. Mi sono assopito con la testa contro il petto lanuginoso di mio padre, cullata dal battito lento del suo cuore. Mi svegliarono delle voci e l'immobilità della carrozza. Saltai giù di slancio. Una folata di vento mi strappò dalla testa il velo bianco. Provai a inseguirlo e dovetti fermarmi senza fiato. Fu la prima e l'unica volta che vidi il mare. Azzurro, con un merletto crespo d'argento ricamato dalle onde. Azzurro che verso il largo assumeva una tonalità sempre più cupa, fino a sembrare una lamina di metallo. Acqua, perdita d'occhio, separata dal cielo, di un celeste chiaro, da una linea netta come fosse tracciato col righello. Mio padre mi appoggiò una mano sulla spalla e disse che dall'altra parte, ma molto, molto lontano, c'era la Francia. Fu la prima volta che sentii nominare quel paese. I soldati della fortezza, avvisati dal nostro arrivo dal priore dell'ospedale di Santo Spirito, ci scortarono fino al punto del ritrovamento. Ma la balena non c'era più. Restavano solo le ossa, lunghissime del cranio, i monconi irti della spina dorsale e quelli ellittici della cassa toracica. Ricordava il fasciame capovolta di uno scafo. Le ossa erano così bianche che sembravano di marmo e il relitto somigliava piuttosto ai ruderi antichi sparpagliati lungo la via Appia, ridotti ad ammassi di capitelli spezzati, pilastri sbilenchi, cornicioni protesi nel vuoto, che permettono solo di fantasticare la forma originale dell'edificio. Eppure non sono rimasta delusa. Le dimensioni di quei resti trasmettevano lo stesso senso di grandiosità e magnificenza delle rovine dell'antica Roma. Capivo che la balena era stata meraviglia. Gli occhi erano grandi come ruote di carro. S'entusiasmò mio padre, le pupille come bocce d'ebano. Non snocciolava misure astratte, te le faceva vedere. E per farmi capire ciò che mi era sconosciuto, lo paragonava a oggetti d'uso comune. I denti erano fitti come gli spilli dei pettini per conciare le canape. Il labbro inferiore gonfio e rotondo come il cordone di travertino alla base delle mura delle fortezze. Mio padre aveva il dono di evocare le cose con le parole, come un mago. Era uno scrittore, ma allora io non lo sapevo. E presto smisi di ascoltarlo. Fissavo la cresta delle vertebre, su cui si infrangevano schiumando le onde. Strizzavo gli occhi e scrutavo l'orizzonte, nella speranza di intravedere lo spruzzo di un'altra balena. Ma sul pelo dell'acqua galleggiavano solo le tartane dei pescatori di Santa Marinella e più a largo le vele bianche di una nave diretta verso Porto Ercole. «Non ci sono balene nel mare nostro, Plautilla», disse mio padre meditativo. «Ma non vuol dire che non esistano. Per questo, mi è caro il dente, lo terrò sempre con me. È una promessa, capisci? Le cose che non conosciamo esistono da qualche parte. E noi dobbiamo cercarle o crearle. Sì, signor padre, affermai, anche se in realtà non avevo capito cosa intendesse dirmi. Ma aveva parlato per la prima volta come un'adulta ed era una bambina di neanche 8 anni. E lui aveva sempre prestato poca attenzione a me. Ero la figlia superflua, la seconda femmina, difettosa, neanche bella. È speciale solo nel mio sonno inanimato, timida, troppo obbediente per liberare il mio desiderio segreto di essere qualcos'altro. Un'eroina, una principessa, una guerriera, una creatura provvista della volontà irresistibile di innalzarsi in questo mondo, procurandosi gloria e onore. Mio padre riponeva le sue speranze di discendenza artistica nel mio fratellino Basilio e aveva già dato il suo amore a mia madre e a mia sorella Albina. Non ne aveva abbastanza, anche per me.